buona parte delle merci italiane che vengono acquistate all'estero viaggiano e sono presentate con imballaggi in carta e cartone. Imballaggi in carta e cartone che prevalentemente, per il 90% per l'esattezza, sono fatti con carta e cartone di riciclo. Ecco perché abbiamo deciso di essere a questa campionaria delle qualità, perché pensiamo che il Made in Italy, che viaggia nel mondo, abbia un cuore di carta e cartone. Un'eccellenza sancita anche dal secondo posto in Europa per la raccolta differenziata di carta e cartone. Esattamente, e questo è un dato di cui credo come italiani dobbiamo essere orgogliosi, ed è un dato che anche industrialmente è significativo se teniamo conto che sino a circa 10 anni fa l'Italia era un'importatrice netta di maceri dall'estero. Nell'arco di 10 anni, grazie alla collaborazione dei cittadini, degli enti locali e dell'industria cartaria, abbiamo non solo colmato questo disavanzo commerciale, ma siamo diventati esportatori di maceri. Beh, credo che sia questo un grande risultato, un altro, diciamo, distintivo di qualità per quanto riguarda il Made in Italy. Una fotografia del comparto. È un comparto importante, strategico. Abbiamo una miriade di aziende che sono oltre 3.500 dislocate lungo tutto lo stivale d'Italia, sono sostanzialmente 40.000 circa gli addetti del settore e abbiamo un fatturato che si avvicina ai 7 miliardi di euro. Quindi una componente importante e soprattutto diventa significativa per l'imballaggio, perché in termini di industria del riciclo è la terza nel nostro paese. C'è però qualcosa ancora da fare, soprattutto per esempio, non so, per qualche realtà italiana? Certamente, come peraltro è stato anche sottolineato nel corso della presentazione dell'inaugurazione, abbiamo certamente da sviluppare un impegno ancora più forte per quanto riguarda il meridione. Nel meridione d'Italia, anche per quanto riguarda la raccolta di carta e cartone, possiamo fare dei notevoli progressi. Oggi siamo attestati intorno ai 20 kg per abitante di raccolta, la media italiana è di 41 kg per abitante. Come si vede, abbiamo un 50% ancora da conquistare ed è questo l'impegno che ci siamo proposti e che vogliamo condividere con gli enti locali.